EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Dagli studi di Radio 24 in Milano trasmettiamo ora la trasmissione 1, nessuno 100 Milan. Ascoltatela, è una trasmissione italianissima. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. 9-8 minuti, signori. Milano, giorno 2 del coronavirus. Le metropolitane sono deserte. Nelle strade non c'è traffico. La gente tiene la mascherina e ti parla poco. Le persone mantengono le distanze. Che meraviglia, eh? Signori, che meraviglia! Ma magari fosse così tutti i giorni senza bisogno del coronavirus. Che bello! Io l'ho messa questa foto, oggi ho preso la metropolitana e sembrava il 14 di agosto. Il 14 di agosto. Ho messo la foto sui social e giustamente tutti mi hanno detto che bello, che meraviglia, come si viaggia bene, tutti comodi, puoi dispiegare il giornale, puoi leggere. Fossero sempre così vuoti i mezzi pubblici, il mondo ideale di Leonardo Manera. Subito mi scrivono questo mondo, gente barricata. Sì, è così, dobbiamo sempre guardare il lato positivo delle cose anche negli aspetti negativi. Scherzo ovviamente, ma neanche poi più di tanto. Ecco, sarebbe bello insomma una città così in situazioni di normalità, per cui dico godiamoci almeno questo momento in cui la gente non ti cammina addosso, non ti parla, non corre, non ti strattona, non ti spinge, non si accavalla l'una sull'altra nel traffico, e va bene. Tra l'altro, cari ascoltatori, da quando è nata questa emergenza, io l'altro, fino a ieri, attorno alle 18, pensavo: ma tu guarda che bella coesione istituzionale, no? C'è il governo Movimento 5 Stelle PD che sta collaborando con le regioni della Lega, tutti uniti come un paese che deve ragionare in maniera compatta, visto che la situazione è questa, tutto così, e poi è successo il patatrac. Va bene, partiamo da qui, vai Alpino. Enthusiasm about the future. La redazione qui è al completo, vediamo, Elisabetta Fusconi non c'è, dispersa. Vabbè. Miriam Lucchetti c'è. Lorenzo Nespoli c'è, l'Alpino c'è, vabbè, Manera. Sì, c'è dalle parti di Piazzale Udine, a casa sua barricato. Ecco, dicevo, la coesione istituzionale, sembrava tutto a posto, tutti tranquilli, tutti sereni, tutti compatti, tutti a remare nella stessa direzione. Poi ieri il Premier Conte è durata 24 ore, è andato a fare un'intervista a Frontiere di Franco Di Mare e a lì. Dobbiamo perseguire questo coordinamento, dobbiamo muoverci in piena sincronia, con piena condivisione dei mezzi, delle misure e degli obiettivi. E se non riusciremo, dovremo, lo dico anche già pubblicamente, essere pronti ad adottare misure che in qualche modo ancora più contengano drastiche. Le prerogative e le prerogative dei singoli governatori regionali, ma non dobbiamo arrivare a quello. Sta dicendo a tutti quelli che l'ascoltano che la Presidenza del Consiglio è pronta ad avocare a sé poteri speciali per affrontare l'emergenza e togliere i poteri ai governatori? No, guardi, voglio semplicemente dire che in questo momento il coordinamento funziona molto bene. Se ciò non dovesse accadere, però dobbiamo essere pronti a creare anche delle iniziative centralizzate, ancora più incisive, ancora più coordinate, ove fosse necessario. Va bene, con la classica mancanza di sintesi, però l'ha detto di coordinatevi, se no interveniamo noi. Apriti cielo. È durata 24 ore la collaborazione istituzionale e rischia di essere già finita. Poi ha detto Conte, forse in un ospedale hanno sbagliato, e tutti guardano ovviamente l'ospedale di Codogno. Ma d'altronde era nel programma Frontiere, guardate che collegamento, a proposito di frontiere, ragazzi, non ci vogliono dappertutto, cioè non siamo i reietti del mondo in questo momento, noi milanesi e un po' anche noi italiani, cioè sono arrivati alle Mauritius degli italiani, beh, gli dico, se ce ne andiamo in vacanza, sono sbarcati alle Mauritius, ci sono stato anch'io, ti prendono subito il controllo della febbre, pensate che io quella volta sbarcai con 38 di febbre ma non se ne sono accorti, va bene, però è un'isola, quindi insomma, e gli hanno, sono arrivati e dici tu vieni da Romania, prego, tu Albania, vai avanti, avanti. Tu Milano, Milano? No, no, no, no, no, no. Milano no, Milano no. Non ci avevano detto niente, nessuno sapeva niente, neanche il comandante. Poi hanno deciso di far scendere tutti tranne Veneto e Lombardia. Sinceramente, Venezia no, Milano no. Il titolo migliore oggi è della verità: gli africani ci mettono in quarantena, gli africani ci mettono in quarantena. Stupendo, stupendo, stupendo, signori. Che succede invece a Ischia, ragazzi? A Ischia c'erano sbarca un pullman, sbarca un pullman di turisti. C'erano i poliziotti tranquilli e c'erano dei cittadini, invece, che sentirete in audio, che chiedono i documenti. Sentite, eh? Facciamo i controlli, non stiamo qua a parlare. Documenti, documenti. Ma lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Di Roma. Roma, ok. No, voglio saperlo, capi, perché sto registrando. Controllate, da dove vengono? Controllate, controllate. Mamma mia. Sulla vita delle persone non si scherza, questo è un problema serio, ragazzi, e ragazzi, non c'è niente di razzismo. Io voglio salutare Paolo Crepè, perché Paolo Crepè, buongiorno professor Crepè. Buongiorno. Io avevo sperato nelle prime 24 ore che andasse tutto bene dal punto di vista delle reazioni, ma non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo, abbiamo resistito. Molto ottimista. Abbiamo resistito 24 ore, c'è da ridere anche se la situazione, però ci può spiegare cosa succede nella mente delle persone in questi? È successo decine e decine di volte per casi molto più banali e quasi ridicoli. Io mi ricordo tanti anni fa il famoso caso del pompelmo blu, che era un giovanotto che aveva iniettato un po' di sostanza e da lì non si mangiò pompelmi per alcuni, sì, alcuni, sì, mesi. Poi non so, il virus A, per cui anche lì la mucchina andò al prezzo dell'oro. Cioè, noi siamo così, forse è mancata nel coordinamento centrale, regionale, locale, l'idea che guardi, le racconto solo questo. Io ieri ho preso un treno su 270 minuti di ritardo. Sì, è andata anche bene, è andata anche molto bene, anzi ero molto contento. Arrivato a Termini, davanti a me c'era una signorina giovane e visibilmente sana, no, pure bella tra l'altro, entra dentro in un taxi il cui tassista aveva la mascherina, e il tassista chiede alla ragazza entrando: ma tu stai bene? Cioè lei capisce a che punto siamo arrivati. Sì, sì, sì, no, ma c'è una situazione di sospetto reciproco. Qua siamo anche alla idiozia. Sì. Adesso non è solo giusta prevenzione, per l'amor di Dio, giusto le cose che ognuno di noi deve fare: lavarsi le mani se è stato in un luogo pubblico, queste, sì, cose qui, queste non sono stare giuste, a 5 centimetri giuste da un signore che tossisce, che non conosci, eccetera eccetera, ma da qui a, cioè, non hanno capito che le epidemie sono due. Sì. Una è quella del virus e una è quella del dell'ossessione. Sì, della psicosi. Ma devo dire una cosa, lei che ne pensa non anche usi di... Non psicosi, no, perché una parola psicosi brutta, no, non è psicosi no, con non crepè, è porca miseria. No, no, perché l'ho letta su 5.000 titoli, una... su 5.000 titoli. Lo so, ma noi giornalisti so, effettivamente siamo pessimi. Cerco di correre. No, è una nevrosi. Le chiedo questo, che cosa, se qualcosa è stato sbagliato, sì, è stato sbagliato nella comunicazione? Perché oggi il Quotidiano Nazionale titola in prima pagina "I virologi, state calmi". Ieri lo stesso giornale titolava "È panico". Allora voglio dire, hanno sbagliato certo, i giornali a riportare oppure è stato sparso un po' no, di panico? No, ma non è questione, allora qui non è una questione 0-1, cioè non è una questione di censura, no, stile mussoliniano che non si dicevano neanche in uno dei suicidi, oppure no, il signore da piano di sotto ha starnutito tre volte, lo mettiamo sul telegiornale. Sì. Ecco, allora c'è un buon senso che devono avere innanzitutto le autorità, mm-hmm, e poi tutte le persone pensanti, anche, perché anche noi cittadini abbiamo delle responsabilità. Certo. Non solo il ministro o il ministro della sanità, piuttosto che il governatore Zaia o non so chi altro, mm-hmm, perché è evidente che il danno sul danno potrebbe essere maggiore del danno primario. Sì. Mi spiego, il danno economico, sociale, evidenza, dura molto di più del virus. Sì, il virus abbiamo capito che è 14 giorni. Questo ce lo dicono i virologi. Sì. Bene, gli effetti di tutto questo... C'è qualcuno, io per esempio banalmente come tutti i professionisti, io ricevo anche stamattina mail di sconferme di conferenze, sì, sì, presentazioni, libri non ci sono più, biblioteche interdette, mia figlia non può più andare all'università, cioè, benissimo, giusto, però diamoci anche delle cose di come posso dire di speranza, i treni devono viaggiare, sì, sì, e soprattutto non ci se vuole si comincia da lì e viene come dire è una io credo che chi ci ascolta ci capisca questo, viene una sorta di voglia di rinchiudersi in casa. No, tipo Maso chiuso, no, queste corse al supermercato, ma perché? Sì, lo so, guardi, io ho litigato con tante persone su questo, cioè, io ieri sono andato a fare una minima anche spesa. Anche l'altro giorno, non cito la fonte, sì, perché è un suo collega, però parlare di economia di guerra, l'ho sentito ieri sera. Sì, sì, è terribile. Da l'idea che poi uno... Posso dire che è irresponsabile. Eh beh sì, perché poi dopo uno deve andare a prendere beh, a fare la corsa al supermercato. La signora di... Ma infatti è questo che io gli ho chiesto, cioè perché... Zagarolo, cosa deve pensare? Molti di guerra, infatti, ci viene in mente sua mamma che... Il mercato nero. Infatti molta gente mi ha scritto, anch'io ho criticato chi è andato al supermercato, ma molta gente, dimostrando tra l'altro una, voglio dire, una coesione sociale nulla, cioè prima penso a me, ai miei cari, gli altri crepino. Ma al di là di questo, io ho detto, cioè molti mi hanno risposto, ma in realtà i messaggi che sono stati dati, e cioè chiudiamo i cinema, chiudiamo i teatri, chiudiamo, questi hanno pensato, adesso chiudono anche i supermercati, tant'è vero, è meglio correre, no? Meglio correre, quindi forse si è esagerato in questo, ecco. Forse si è esagerato in questo e occorre da subito, perché il danno non è solo un danno interno, come abbiamo ben visto purtroppo dai giornali di queste ore, c'è un danno internazionale. E come no? Perché Lombardia, noi Veneto esportano... sì e i francesi no. Ecco, qui c'è la grande tematica, molti dicono noi facciamo i controlli, gli altri no, e quindi... Beh, ho capito io, ma questa è una idiozia, questa è, chi l'ha detto ha pochissimi neuroni nella testa, perché siccome la febbre non dipende dai controlli, la febbre, se uno c'ha 39, c'ha 39... Sì, sì. non è che devi fare un controllo particolare. Senta, professor Crepè, mi dica come ne usciamo da questa situazione, perché prima o poi ci sarà un punto. Innanzitutto comunicazione. Se facciamo funzionare il paese senza panico, cioè questo benedetto Torino-Salerno, Freccia Rossa, deve funzionare al minuto. Facciamo tutte le cose, cioè, e poi anche lì è possibile che ci vogliono 10 giorni, 15 giorni per cambiare uno scambio rotto. Sarà la magistratura, avrà fatto i suoi rilievi, si rimette a posto. No, si passa per la linea normale che, guarda caso, passa sulla stazione dove il capo stazione si sente male, che magari invece si sente male perché sta male, c'ha mal di stomaco. Ha scoperto che il figlio si fa le canne, non lo so, ci sono 10.000 motivi per cui sta male. Nessuno gli ha fatto il tampone in diretta, però questo ha costato 270 minuti di ritardo. Ritardo, ma magari a persone che non vanno a Napoli a giocare. No, ma per lavoro. Io, professor Crepè, la ringrazio. Non userò più la parola psicosi, almeno da questo tempo, ma nevrosi, visto che psicosi è un'altra cosa. Intanto ringrazio il professor Paolo Crepè. E come si diceva, dalle difficoltà le opportunità. Allora, voglio salutare un architetto che tutto il mondo conosce, è stato anche assessore qui a Milano, ma insomma, Stefano Boeri. Professor Boeri, buongiorno e grazie di essere qui, perché ecco, dalle difficoltà alle opportunità. Il mondo del lavoro nel giro di 2 giorni è stato stravolto, è innegabile. Aziende che dicono chi può stia a casa, lo smart working. Allora, anche oggi il segretario della FinCisl, Bentivogli, intervistato dal Corriere, ha detto: oh, ma prendiamola come opportunità. Lei lo ha scritto in un post a dire: guardiamoci in faccia, dire forse il mondo va verso quella direzione, lo stiamo imparando bruscamente, ma forse dovremmo prendere spunto da questa storia, o no? Beh sì, ovviamente speriamo che il mondo vada in quella direzione in senso stretto, però certamente alcune pratiche, alcuni modi di vivere, di lavorare in questi giorni in qualche modo possono essere colte come delle opportunità per esplorare delle possibilità che le tecnologie oggi ci danno. Le faccio 2 esempi. Noi abbiamo, come dicevo, in questo posto uno studio a Shanghai da anni, e da 25 giorni gli architetti che sono lì lavorano da casa, quindi lavorano in remoto. Questo è un modo di lavorare che all'inizio non è semplice, che richiede una disciplina molto importante, che richiede anche alcuni scelte nel comportamento quotidiano: avere uno spazio di lavoro in casa, cercare di isolarsi con degli orari molto precisi, continuare a vestirsi, questo sembrano piccole cose, ma continuare a vestirsi anche rispetto alle comunicazioni, ai momenti di incontro, in un modo serio, non essere abbandonati alla sciatteria. Sì. Però produce anche degli effetti interessanti, nel senso che noi stiamo andando avanti a lavorare, adesso lo stiamo facendo anche dallo studio di Milano in questi giorni, e devo dire che naturalmente non è possibile per tutti i lavori, ma per moltissimi lavori oggi questa è una condizione positiva. Infatti le avrei voluto chiedere questo: secondo lei percentualmente quanti lavori possono essere svolti anche in telelavoro, smart work, insomma utilizziamo il termine che volete? Ovviamente tutti i lavori che hanno una grande, come dire, dimensione intellettuale, di produzione intellettuale, di contatto sul piano dello scambio delle idee, dello scambio delle riflessioni. Questo rende più semplice ovviamente le cose. Questo non significa che poi l'interazione personale non sia sempre fondamentale. Questa può avvenire anche in rete, ma naturalmente si perde molto. Questo, quindi, come dire, non ci deve far pensare che il lavoro remoto sia l'unica prospettiva, sarebbe sbagliatissimo. Ma questa situazione di crisi ci aiuta a sperimentare una forma di lavoro che sarà certamente importante in futuro. Questo voglio dire. È una sperimentazione che secondo lei finirà nel momento in cui finirà l'emergenza? Cioè vede il mondo delle aziende, il mondo produttivo italiano pronto a raccogliere questa sfida, oppure è una risposta immediata dovuta alla situazione e poi si rientrerà nei ranghi? Vabbè, ci sono già sperimentazioni di questo tipo, cioè nella vita ordinaria ci sono già forme pianificate di telelavoro, di situazioni in cui per esempio la presenza alle scrivanie è controllata secondo delle rotazioni. C'è già questo, e questa situazione particolare accelera la sperimentazione di queste innovazioni. Come accelera anche altre innovazioni, ne faccio un altro esempio. Io sono presidente della Triennale di Milano, sì. La Triennale, come tutti i musei milanesi, è chiusa. Noi oggi ci troveremo in comunicazione web per studiare delle forme di offerta culturale via web. Cioè, stiamo pensando a delle visite a alcuni spazi del museo che saranno fatte in simultanea, in diretta, in rete, o a delle conferenze aperte al pubblico. Cioè, credo che anche questo sia un modo per trasformare un problema enorme in un'opportunità per sperimentare qualcosa di nuovo. Non voglio dire niente di più. Certo, anche perché la bellezza di entrare in un polo della cultura, in un museo, è insostituibile, nel vedere un'opera, nell'apprezzarla. Però, diciamo così, ascoltare un commento intelligente guardando un'opera sullo schermo e potendo interagire con chi la racconta è meglio che stare a casa magari un'ora dover guardare per 5 volte una serie TV che si è visto. Ecco, faccio un esempio, perché questa è un po' la situazione. Sì, Netflix a go-go, giusto per non fare pubblicità. Esatto. Ma professor Boeri, lei ha capito a proposito di cultura quando potranno riaprire? Fino al 2 marzo, ovviamente tutto bloccato, ma guardi, presumibilmente... Non leggo moltissime supposizioni, veramente credo siamo ormai nauseati dalle supposizioni. Io mi baso semplicemente su l'esperienza diretta. Shanghai è grande come la Lombardia, e Shanghai ha fatto una scelta esattamente simile a quella di Milano, di altre aree del nord Italia, di chiusura diciamo molto drastica di tutti i servizi, di tutti gli spazi pubblici, il lavoro remoto. Da qualche giorno la curva è cambiata, non ci sono più nuovi infetti. Noi lunedì forse riapriremo lo studio Shanghai, quindi io sono abbastanza ottimista, nel senso che penso che un mese, se si applicano con serietà le indicazioni delle istituzioni e si cerca appunto di avere un atteggiamento positivo, pensando che in fondo questa attenzione è anche un grande gesto di generosità verso la parte più debole e fragile della popolazione, che è quella più colpita. E quindi io la vedo anche come un atteggiamento di cura. Di cura reciproca. Fragile. Ecco, bene, allora viviamo questo mese, viviamolo anche in questo modo, con uno spirito di generosità. Siamo intenti a fare un atto di generosità. E poi io penso che fra un mese piano piano ripartiremo. Ecco, no, ma infatti, perché adesso poi l'autorità deciderà, ma effettivamente anch'io penso che dire si blocca tutta una settimana non sarà sufficiente. Nulla, perché non spetta a noi, ma sarebbe anche un po' sbagliato, cioè proprio fuori esatto. Logica. Dopo una settimana tutto come prima. No, allora vorrebbe dire che qualcosa è impazzito. L'ultima domanda che le faccio era questa, riguardo al telelavoro. Lei che viaggia in tutto il mondo, lavorate in tutto il mondo, qual è secondo lei la realtà a cui tendere, più positiva da questo punto di vista, più moderna, più pronta a questo tipo di sfida? Ma guarda, mi viene da ridere pensando che direi la Cina, perché in questo momento Se è così, invece è così. Però le assicuro, in Cina, ovviamente la Cina è un continente, quindi io dovrei essere più preciso, dovrei dirle Shanghai per esempio, piuttosto che Pechino, Shenzhen. Ci sono città dove c'è oggi una sperimentazione molto avanzata di forme di telelavoro, e infatti sono state subito, come dire, intensificate, anche perché c'erano già le basi. Però questo è un esempio, poi ci sono anche altre situazioni, penso per esempio l'Olanda, conosco situazioni di lavoro molto avanzate, Inghilterra, però le dico, la Cina è un paese dove grazie anche a delle forme molto semplificate e unificate, in Cina WeChat è un canale di comunicazione pervasivo, cioè noi abbiamo WhatsApp, abbiamo le mail, abbiamo Twitter, abbiamo Instagram, ecco, WeChat parli, con WeChat compri, con WeChat incontri, è tutto un mondo che avviene attraverso la piattaforma. Sì. Va bene, io professor Boeri la ringrazio, Stefano Boeri, presidente della Triennale, architetto, urbanista, insomma ex assessore a Milano, ma è una persona che tutto il mondo conosce, anche solo per il bosco verticale, forse dico una delle opere che tutto il mondo, tutta l'Italia conosce a Milano. 9:32 minuti, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Con l'arrivo, l'arrivo virtuale di Leonardo l'uomo grappa, barricato, vestaglione, lentopede manera. Uno, nessuno, 100 Milan. La più grande delusione è vedere che ancora una volta gli italiani non dimostrano senso comune, testa sulle spalle. Litigano un po' tutti, virologi, politici, si fa la coda ai supermercati. Questa è la cosa che più mi rattrista. Milan, ma i Novax, i terapiatisti e le scie chimiche cosa dicono? Vabbè, però la turista di Bergamo a Firenze, una è positiva e l'altra a Palermo. Stessero un po' fermini a casa in questo momento, perché noi di tutto abbiamo bisogno fuorché di altri focolai di coronavirus. Santo cielo! Questo è un po' vero, ma adesso ne parliamo. Devo dire una cosa sui complottisti, eccetera. Io dico a sto giro, grazie al cielo abbiamo il Movimento 5 Stelle al governo, perché se fosse stata l'opposizione avremmo già un profluvio di complotti, complottini, big pharma, accuse, vabbè. Tanto qua. Non è il caso che tu, buongiorno, che anche in questo momento difficile tu dia contro ai 5 Stelle come sei solito fare. No, eccolo qua, il leghista, eccolo qua. Invece di pacificare l'atmosfera nazionale, ti accanisci volta contro i 5 Stelle. Non mi accanisco. Senza motivo. Come stai, Leonardo? Giorno 2 del barricamento. Ieri è successo questo, devo dire una cosa. Leonardo Manera verso le 18 mi ha telefonato, non succede mai di rompere questo suo silenzio, eccetera, e così ha chiacchierato per 10 minuti, del più e del meno, perché chiaramente è un uomo già finito, isolato. No, chiuso. Ma perché? Anzi, è bellissimo, perché poi posso andarmi a fare qualche bella passeggiata con poca gente in giro. Io ho fatto una bella passeggiata al Parco Lambro, cammino, penso. Tra l'altro, ascoltando prima Crepè, ha dato una straordinaria idea, secondo me, per i palinsesti televisivi. Cioè invece di fare la vita in diretta, fare tampone in diretta. Fai tre ore in cui viene portato il tampone, ci sono tutte le fasi in cui viene analizzato. Ecco, il biochimico ha preso il tampone e il reagente. Secondo me avrebbe un grandissimo successo in questo periodo. Tampone in diretta. Potrebbe essere un nuovo format. Stai a vedere che qualche autore televisivo si stia già muovendo. Stai attento, caro Leonardo. Vuoi ovviamente, per il resto io sfrutto il consiglio di Boeri. Ecco, sfrutto le opportunità. Telelavoro. Infatti ieri quando mi ha detto cerchiamo Boeri, Leonardo ha subito scritto nella chat del programma: sono totalmente d'accordo con Boeri, l'importante basta di estate a casa, lavorate da casa, telelavoro, eccetera. C'è solo una cosa che io faccio diversamente da quanto diceva Boeri, che io non mi vesto di normalmente. Sì, rimango in pigiama. In pigiama. Devo dire anzi oggi, per dare una brutta immagine. Ecco. Ti prego, fallo. Oggi non sono neanche col pigiama, ma ho un maglioncino vecchio e un po' tarmato, un po' bucato. Con dei buchi, vabbè. Allora, io voglio, a proposito dell'ascoltatrice che ha detto stiano un po' a casa loro, ecco, l'ha detto in maniera più gentile, però... salutando Carlo Rienzi, presidente del Carletto, ciao, come stai? Ciao, buongiorno. Fatemi salutare il sindaco di Ameglia, siamo in provincia di La Spezia, Andrea De Ranieri, buongiorno sindaco. Buongiorno. Grazie. Milan, buongiorno Manera. Allora, ma che cosa è successo lì? Cioè che una famiglia nella frazione di Monte Marcello, ma insiste nel suo comune... Una famiglia da Codogno ha detto: ma sapete che c'è? Andiamo via, che approfittiamo. 9 persone sono andate nella loro casa di proprietà a Monte Marcello. Esatto, è così. Ma porca miseria, ma io sindaco, cioè voglio dire, adesso vabbè, e quindi adesso sono in quarantena, piantonati, immagino. E quindi nulla, ieri mattina abbiamo saputo di questa presenza, abbiamo attivato tutti i protocolli previsti dalla regione e abbiamo iniziato la quarantena fino al 9 marzo. Fino al 9 marzo. Cioè lei è dell'idea, come questa ascoltatrice che ci ha detto, ma insomma, con un senso di responsabilità, se siete nella zona rossa state lì, perché se no o no? Sì, beh, no, è vero, ora è un problema che noi l'abbiamo visto ieri, però siamo in una zona qui che è piena di seconde case, insomma, poi ieri è uscita un po' fuori anche un'isteria collettiva, la caccia, certo. Volendo la caccia al lombardo, sì. Che è una roba un po' strana, però effettivamente telefonate, so di una famiglia di Piacenza, so di qua, so di là. Le delazioni, Leonardo, la gente che chiama, quelli lì vengono da Piacenza, andate a controllare. E no, scusate se rido. No, no, ma diciamo che è un clima che ricorda i Promessi Sposi, insomma, qui c'è questo clima un po' così, da untori, da... Però io devo dire una cosa, che ora... Al netto che questi la cavolata l'hanno fatta, perché voglio dire, sì. Potevano tranquillamente rimanere tra Piacenza e Codogno senza creare problemi. Probabilmente hanno fatto questa valutazione, la quarantena ce la facciamo anche in un posto di mare, per carità di Dio. Però effettivamente questo ha creato molta preoccupazione, preoccupazione che devo dire è immotivata, perché il protocollo si è attivato subito. Sono anche stati molto collaborativi, li ho sentiti personalmente per via telefonica e hanno confermato di rimanere a casa, li abbiamo... Sì, però sindaco, la sensazione è, non fossero stati beccati, questi se ne andavano in giro, cioè questa, no, non penso che sono venuti lì con la sensazione di dire ci barrichiamo in casa, perché allora se casa per casa ti barrichi in casa nella casa tua. No? Diciamo che ieri mattina, quando sono venuto a sapere che c'era questa famiglia, poi non so bene la scaletta come è andata, però quando ho chiamato l'ASL loro avevano già chiamato l'ASL. Quindi diciamo, io la voglio mettere sul senso di responsabilità. Io voglio sentire un attimo Rienzi. Voi del Codacon siete scatenati, mi hai mandato 100 messaggi contro i prezzi delle mascherine. Sai che è comparso il primo venditore ieri nella metropolitana milanese, ho visto un ambulante che metteva il suo trabiccolo con sopra le mascherine abusive. Ovviamente a 3 euro, 3,50 euro, cioè, capisci? Perché sì, ma a parte questa cosa della, c'è questa psicosi generale, ma certo dipende anche dal manico, perché se il governo si fosse comportato in modo diverso, ma non facciamo critiche adesso, se no subito ti dico fai critiche, cioè, vabbè, lasciamo per adesso. Io, se potessi, diciamo, essere in quarantena alle Seychelles, sarei più contento. Quelli volevano andare alle Mauritius in quarantena e le hanno ricacciate a casa. Vieni da Milano, andatevene via, brutti appestati da Milano. Però quello che è inconcepibile è che ci sia gente, c'è gente pronta in queste situazioni a dire mo faccio i soldi, no? Per cui il gel lo vendo al quadruplo, le mascherine, dicono che sono... È brutale mercato, dice. Ma nera, quanto l'hai pagato tu? No, è brutto, lo so. Sono strumenti sanitari, non può essere non ci possono essere regole di mercato. Domanda e offerta. Domanda e offerta, ho capito. Ma non puoi essere domanda e offerta sull'aspirina. Allora, se io c'ho bisogno di aspirina nel paese, nello Stato, dice, siccome tutti chiedono l'aspirina, aumenti il prezzo dell'aspirina. Se il costo è sempre quello, perché è sempre quello per chi li produce, gli strumenti sanitari, strumentazione sanitaria non può essere assolutamente aumentata. Quindi che avete fatto voi? Libero mercato. Avete denunciato tutti? Abbiamo denunciato tutti e adesso tutti. Già la Guardia di Finanza si è messa in moto, la Procura di Milano ha aperto l'inchiesta e finalmente stanno diminuendo. A Roma già abbiamo le farmacie che vendono al vecchio prezzo, perché dimostrando in questo modo che si può fare tranquillamente, che proprio semplicemente speculazione, sì, è una cosa assurda, andrebbe veramente, uno di questi andrebbe preso e messo in galera. Voi che siete anche amici voi che siete amici anche dei Trenitalia, cioè che succede questa cosa dei ritardi, però capite che Trenitalia, sì, è una abbiamo... situazione disperata, cioè per cui adesso oggi io ho chiamato stamattina alle 6:15 il numero, quello per le emergenze di Trenitalia, che dopo 21 minuti mi ha risposto e ha detto che è tutto bene, regolare, tutto quindi regolare, che sì, è tutto tornato regolare. Sì, però se poi ragazzi, cioè la questione è se un capo treno o un capo stazione gli viene da star male allo stomaco e la gente dice bloccate tutto, cioè mica è anche colpa dei treni, cioè è che la gente deve anche un attimo capire che uno può star male come è successo. Ma la cosa migliore secondo me è, caro Milan, è adesso stare un po' tranquilli, cioè cercare di evitare di andare in giro, ecco, se è possibile, come quelli di Codogno. A proposito, sindaco, voi che avete, come fate? Come fanno a fare la spesa? Adesso vi hanno dato anche una bella incombenza, sindaco di Ameglia, perché qualcuno sì, dovrà stata, qualcuno dovrà portargli la spesa, dovrà dargli da mangiare. La mia prima domanda alla ASL, perché gli ho detto, e adesso a questi chi gli dà da mangiare? E nulla, abbiamo concordato col supermercato qui locale che fa le spese a domicilio e questi praticamente faranno l'ordine telefonico, pagamento online e il ragazzo gli lascerà i sacchetti fuori dalla porta, fuggendo. No, non c'è bisogno che scappi, glielo lascia, dice poi va via, si allontana. Sì, è un po' una situazione che ha dall'assurdo, lo riconosco, però Ma voi pensate, uno sta ad Ameglia, che è un posto meraviglioso, Monte Marcello, lo conosco bene, guardi, lo conosco, grazie, sindaco, la prima volta che vengo a bere un caffè, è un posto meraviglioso, fa il sindaco lì e si deve trovare a gestire questa situazione. Io ho una domanda, nel senso, io non sono in una zona rossa, abito a Milano, ma se volessi per esempio venerdì e sabato andare in Liguria con mio figlio, sono accolto normalmente oppure rischio di essere picchiato? Ma diciamo che la genetica ligure ha avuto una recrudescenza in questi giorni, questo sicuramente, però io credo che dunque valga l'informazione, perché poi non vi dico cosa è uscito sui social tra ieri e oggi. Effettivamente la paura delle persone genera veramente dei mostri, ecco. Poi voglio dire, se c'è il senso civico da parte di chi si trova nelle zone rosse o sospetti di essere venuto in contatto con qualcuno, è logico che deve avere la prudenza di restare a casa. Poi la caccia alle streghe non la farei. Chiaramente. Ma anche se non si arriva dalla zona rossa, Milano non è zona rossa, ma ho l'impressione che comunque non si verrebbe ben accorto. È così, Leonardo, hai visto le Mauritius. Ieri mi parlavano di Monza, mi parlavano di gente di Monza, di gente, quindi anche di zone che comunque sia effettivamente non rientrano poi nella stretta cerchia, effettivamente la paura c'è. Questo c'è. Io scusate, ma sono molto in ritardo. Devo salutare Carlo Rienzi, il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri. Devo andare al traffico. Leonardo, guarda, ma lo dico ridendo, come ci scrive Roberto da Alassio: non rompeteci. Beep, grazie. Ecco, non è il modo giusto per essere una nazione, tanto ve lo dico, farà il giro d'Italia anche il coronavirus. Io voglio andare per ripicca in Liguria. Eccolo lì, traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Scusate, ma io a dir la verità vivo a Milano, ma io di supermercati vuoti non ne ho trovato uno. Forse sono fortunato. Scusate, ma tra virtualità e vestaglia e casa a sto manera, ma perché non vi dotate di un ologramma? Così ce l'avete sempre là. che ne dite? Io penso di sì, va. Lo so. E polemici. Io veramente voglio andare venerdì e sabato qua in Liguria con mio figlio per vedere se c'è veramente questa nevrosi, per cui anche persone che... Ti leggo qualche messaggio. Manera, stai a casa e non rompere gli zibedei. Scritto così. Poi... Guarda, voglio andare a Bergeggi. Lo dico già prima. Vado un giorno e mezzo a Bergeggi. Quindi, ma perché hai scelto Bergeggi? Pensavo Masone. Farai una tappa. Mi piace comunque il nome Bergeggi. Voglio vedere se gli abitanti di Bergeggi mi accolgono normalmente oppure così. Allora, amici di Bergeggi, è in arrivo Leonardo Manera. Lo riconoscete chiaramente. È col figlio. Se dovete insultare qualcuno, lasciate stare il figlio, poverino. Però magari, non so, dai, qualche coppino potete dare magari a Manera. Vai via da Bergeggi, poi mi porto fino a Noli, magari anche a Varazze, cerco, ecco, di frequentare un po' la zona. Non ho sintomi, non vengo dalla zona rossa, né io né mio figlio, quindi in teoria. Però voglio vedere il ligure come reagisce. Il ligure di Bergeggi, e ovviamente, ecco, per i vicoli di Bergeggi va in giro dicendo: sono di Milano, vengo da Milano, Milano, la gran Milan, la grande generosa Milano. No, prova a vedere. Io voglio usufruire della proverbiale ospitalità ligure. Sì, notoria, notissima, come il sindaco ci ha confermato. Esatto. Cos'è che ha detto prima? La genetica ligure in questi casi. Sì, che secondo me siamo un po' in ritardo, magari potremmo evitare. No, mancano 5 minuti, ti dico solo questo. Sono appena rientrato da Bergeggi, tutto tranquillo, non ti mandano via. Gigi, da Orzi Nuovi, anche Orzi Nuovi. Brescia, già, no? Lì non ci sono casi Orzi Nuovi, provincia di Brescia, si è visti normalmente. Allora, questo coronavirus ci sta facendo conoscere aspetti della vita fino a ieri inimmaginabili. Ad esempio, storicamente tutti avevamo memoria dei meridionali che arrivavano a Torino negli anni del boom, e alcuni piemontesi preferivano non affittare loro le case, respingendoli al mittente. Più recentemente, anzi tuttora, si verifica che gli extracomunitari vengano mal sopportati quando cercano di attraccare a Lampedusa. Mai però era successo che i lombardi, noi, quelli residenti in Lombardia, venissimo scacciati o visti con sospetto in molte località delle terre della terra. Il lombardo veneto è diventato la feccia della terra. Io immagino ad esempio una famiglia dove magari una ragazza, che so, di Matera, si è innamorata di un ragazzo di Paullo. Il padre chiede alla ragazza: dov'è Paullo? Paullo è vicino a Milano, verso Crema. No, ti proibisco di frequentarlo. È un lombardo, piuttosto mettiti con un extracomunitario, un senegalese. Ma papà, io lo amo, anche se è di Paullo. E la madre: figlia mia, con tutti i bravi ragazzi che ci sono in giro, dovevi innamorarti proprio di uno di Paullo, un lombardo. Così succede che al lombardo veneto venga inibita la Basilicata e anche le Mauritius in Austria ci vedono con sospetto, a Ischia non ci vogliono far entrare volentieri. Siamo la feccia del mondo. Ma non è l'unica cosa un po' strana di questi tempi. Quando sentiamo i numeri dei deceduti da coronavirus, quasi sempre ci dicono che per lo più si tratta di anziani, magari che soffrivano già di patologie precedenti. E allora il viso del conduttore si illumina quando dice: ne è morto un altro. Ma era anziano, aveva più di 80 anni. Per prima cosa gli anziani si toccano. Ma poi è come se della vita degli anziani non gliene fregasse niente a nessuno. È morto un vecchio, sì, ma era un vecchio, non c'è problema. Sembra non solo che la morte di un vecchio non interessi a nessuno, ma quasi quasi ai conduttori dei vari programmi sembra che faccia anche un po' piacere. Per finire, una conferma. La conferma che la mamma è sempre la mamma. Il ragazzo di Codogno che è scappato dal cluster, dal focolaio dell'infezione, per ricongiungersi alla mamma ad Avellino. E allora io mi sono ricordato quando mia madre ancora era viva, e ogni volta che mi ammalavo, malattia di qualsiasi tipo, mia madre al telefono sempre mi scongiurava dicendo: Leo, torna a casa, vieni a casa, Leo. Questo in qualsiasi periodo della vita, quando ero single, quando convivevo, quando avevo già un figlio. Mia madre, come credo tutte le madri, vede in ogni malattia del figlio, anche la più banale, come una possibile causa di morte, a meno che non venga accudito premurosamente dagli impacchi materni. Immagino allora la signora di Avellino che ogni quarto d'ora telefonava al figlio dicendo: figlio mio, torna a casa, che lì al nord è pericoloso. È pericoloso, non c'è nessuno che ti cura. Il figlio alla fine si è fatto suggestionare ed è partito. Insomma, questo coronavirus sta travolgendo alcuni stereotipi e ne sta confermando altri. L'unica speranza per il futuro potrà esistere ancora se una ragazza, magari di Maratea, di Scalea o di Marina di Pisciotta, si potrà ancora innamorare senza paura, magari, di un ragazzo di Paullo. Sì, ragazzi, c'è questa situazione per cui... Ma l'hai sentito... A Ischia cosa è successo? Con sì, ho sentito. I poliziotti sì, tranquilli e un paio di cittadini ischitani. Lei da dove viene? Da dove viene? Fammelo risentire. Da dove viene? Io cittadino di Roma. Sono a Roma, va bene. Allora passi. È stupenda, stupendo con i poliziotti che dicevano state tranquilli, senti qua. Facciamo i controlli, non stiamo qua a parlare, documenti. Lei chi è? Ecco, questo lei chi è? Lei chi è? Di Roma. Roma. Ok, Roma. Voglio saperlo, capito, perché sto registrando. Già il tono di voce ti fa capire il carattere della persona, il tono di voce del controllore. Documenti, no, ma erano cittadini normali, non è controllore. Documenti, erano degli ischitani evidentemente infastiditi o impauriti. Vabbè. Ragazzi, nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 non parleremo del coronavirus, perché mo basta, ecco. Bisogna dire anche così, Leonardo, a te dà fastidio quanto ne stiamo parlando. Mo basta, sei di quelli, mo basta, c'è anche un altro mondo intorno, oppure parleresti solo di questo? No, secondo me anch'io adesso un po' allenterei, perché tu è troppo. Tu proprio smetteresti. Io vorrei rimanere a casa, però parlare d'altro. Parlare d'altro, va bene, dai. Andiamo al giornale radio. Uno, nessuno, 100.000. Quello che voglio dire io, ma perché questi cittadini lombardi e veneti devono andare in giro? Che se ne stiano a casa loro, che tornino da dove sono venuti. Aiutiamoli a casa loro. Oh, buongiorno caro Manera, vieni che ti accogliamo a braccia aperte, vieni a Moneglia che è bellissima, ciao! Io ho una casetta a due vani a Varazze, non la uso, quindi se Manera e Beniamino vogliono venire a fare qualche giorno qua, io li ospito volentieri. Io non la solamente capisco. Che oggi piove ed è brutto, non so come sarà. Non la capisco. Il weekend, questa, però, non si sa. Questa solidarietà non si capisce. Ma guardate che Manera, grazie. Intanto un rompimaroni di quelli di prima categoria. Insomma. E poi non è che siccome Leonardo Manera lo conoscete, viene da Milano e quindi è puro. Come dire, no, è allora, milanese come tutti i milanesi. Sono sintomatico, non ho avuto contatti con persone nella zona rossa. Accetto volentieri la proposta della signora. Se lascia in redazione il numero, vengo a prendere le chiavi di casa, poi ritiro. Ti ricordo che ti aspettavano ancora la mostra di Tesla a Milano domenica. Avevo completamente dimenticato. Sì, ecco, chissà perché. Comunque, noto anche l'ironia dell'aiutiamoli a casa loro. E niente, adesso c'è questa ironia. I lombardo-veneti sono un po', come dire, dei reietti. Va bene, signori, non parliamo adesso di coronavirus, anche perché vi comunico che per questa settimana concluderemo la nostra trasmissione un pochino prima, alle 10.45, per dar spazio a Nicoletta Carbone, che ieri è stata qui nella seconda ora con noi. Nicoletta Carbone dalle 10.45 alle 11 risponderà tutti i giorni con degli infettivologi alle vostre domande. Quindi ci occuperemo alle 10.45 di questo con Nicoletta. Caro Leonardo, adesso ti presento una preside, io li chiamo così, non me ne vorrà, Vilma Molinari, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Lei preferisce di quelle dirigente scolastica? O Va benissimo, così è agevole, lo comprendiamo tutti. Ottimo. Istituto Comprensivo 1 di San Bonifacio, Verona, anche lì saranno sospese le gite, ma non è questo il motivo per cui l'abbiamo chiamata. Certo. È stata, come dire, certificata come prima scuola antibulli. Beh, ci ha incuriosito molto. Perché cosa vuol dire? Intanto certificazione da parte di chi e sulla base di che cosa? Certo, Allora, intanto grazie per darmi l'opportunità di spiegare questo progetto che dall'anno scorso, dalla primavera dell'anno scorso, abbiamo deciso di portare avanti. Allora, si tratta di una certificazione di sistema per la prevenzione e la gestione, nonché il contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle istituzioni educative e scolastiche, secondo la prassi UNI 42 del 2018, che è stata, diciamo, scritta, elaborata da più persone, sì, e competenti, e mirata, proprio calata su tutte quelle realtà che hanno a che fare o per l'istruzione o per aspetti educativi con i minori. Ma cosa vuol dire essere certificati antibulli? Cioè, uno cosa deve fare come scuola per ecco, allora, come scuola anzitutto bisogna condividere diciamo le indicazioni scritte nella prassi e attivare un sistema vero e proprio che diciamo aiuti la scuola a tanto a realizzare, a perseguire le sue finalità istituzionali relative alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso un codice disciplinare per gli alunni, attraverso la formazione degli insegnanti e non solo, anche del personale ausiliario, che è estremamente importante in tutti gli aspetti legati alla vigilanza e al contatto con gli alunni, sì, nei momenti in cui i docenti appunto non ci sono o sono in altre postazioni. Il coinvolgimento delle famiglie e quindi anche la formazione assieme alle famiglie attraverso l'aiuto di personale esperto. Ma mi faccia capire, Preside, cioè, siccome i ragazzi poi sono ragazzi, no? Certo. Può darsi anche che venga nella vostra scuola un ragazzo, una ragazza che vuole avere dei comportamenti da bullo nei confronti degli altri. Cioè è un sistema così codificato che questa persona viene immediatamente individuata e fermata? Beh, allora, speriamo che sia così, dobbiamo testarlo appunto, e comunque quello che l'esperienza di questi mesi, dal momento in cui abbiamo attivato il sistema e lo stiamo applicando, in realtà le sanzioni sono di più, le sanzioni disciplinari. Questo da un lato ci garantisce sul fatto che il sistema messo in atto ci permette di avere un'osservazione più scrupolosa e una vigilanza più dettagliata di tutti quei comportamenti che, se trascurati, possono dar luogo a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Che dici, per cui Leo? Dico che il possibile bullo viene messo in quarantena subito. Sì, ecco. Beh, insomma, diciamo, è un'immagine sì, efficace di questi però tempi. Però diciamo che speriamo che un bullo non abbia voglia di venire nella nostra scuola. Ecco, secondo me infatti era questo il punto, cioè se una scuola ha questo tipo di certificazione, cioè si sa che in quella scuola c'è una estrema attenzione a questo tipo di fenomeni, forse già quello che ha la propensione a fare il bullo sa che lì avrà vita difficile, ecco, la metto non la volevo dare come prima risposta perché non volevo metterla subito sul piano dell'ironia, però in realtà c'è anche questo che al di là dell'aspetto così magari superficialmente ironico, però è un messaggio che comunque noi diamo all'utenza e al territorio. Cioè, bulli, per se venite qui sappiate molto che importante, che qui la pensiamo diversamente e quindi staremo attenti a tutto, ecco, anche a quei momenti molto delicati, e questo ci tengo a sottolinearlo, come possono essere il trasporto scolastico, quindi il famoso pulmino, sì, o la classica uscita, la prima mezz'ora, diciamo, sì, l'uscita didattica, certo, ma anche il momento ordinario in cui l'alunno termina le lezioni ed esce a casa, se non è sul pulmino e magari rientra a casa autonomamente. Il tragitto da scuola a casa può essere un momento molto delicato, per qual cui è, Preside, abbiamo le chiedo, attivato sì, anche per questi momenti dei metodi, insomma, che ci permettono di riprendere sul piano educativo con la famiglia i comportamenti scorretti. Qual è, le chiedo, il comportamento che più la inquieta in questo momento, osservando i giovani, osservando, qual è la cosa su cui stare più attenti? Allora, ciò che mi inquieta è che non sono consapevoli del limite, del confine tra lo scherzo e l'offesa. Ecco, questo mi preoccupa. Questo però c'è stato un po' da sempre, no? quattro c'è occhi e due stanghette, i bambini è grassi, vero. I bambini no, c'è sempre. È vero che c'è da sempre, però adesso tutte le fasi sono anticipate purtroppo rispetto a una volta, ma bene o male invece lo sviluppo biologico e psicologico quello è quello che la natura insomma prevede, sì, però sì. Alcuni comportamenti sono molto anticipati ed è per questo che noi abbiamo coinvolto in questo sistema anche le nostre scuole dell'infanzia, sì, appunto sì, perché riteniamo che agire sul piano educativo fin da piccoli sia la cosa che, seppure con dei risultati di lungo termine, però sono risultati tutto sostanziali. Comporta un lavoro in più da parte anche dei docenti e in generale di tutto il personale. Come viene accolta questa necessità di lavoro in più? Ma allora, non è stata vissuta come lavoro in più, ma anzi come un'opportunità per lavorare meglio e più serenamente anche, perché nel momento in cui sono attivati dei metodi e sono date soprattutto disposizioni, indicazioni ben precise al personale, tutti si sentono più sicuri e lavorano più serenamente, magari anche di più e più efficacemente, però con maggior consapevolezza e anche, ripeto, con maggior tranquillità. Per cui, anzi, questa, nel momento in cui l'anno scorso avevo proposto la prassi, è stata subito accolta benissimo, proprio perché risponde a tutte quelle situazioni che nella vita scolastica possono essere una zona grigia di tutti e di nessuno e in cui in effetti poi si insinuano o gli errori da parte anche della scuola o degli alunni o comunque le situazioni sgradevoli. Sì. Per cui è stata accolta assolutamente in modo positivo e credo nessuno ha pensato che questo comporti lavoro in più, ma un lavoro migliore. No, ma questo perché altrimenti non si sarebbe ottenuta questa certificazione. Noi la ringraziamo, è Vilma Molinari, preside dell'Istituto Comprensivo di Uno di San Bonifacio Verona. Effettivamente, come ha detto Simone Spezia, hai sentito, mi cigola la sedia, senti. Cioè, proprio, sì, cioè, si sente ed è anche fastidioso. Sì, come cosa devo fare? Devo stare immobile? Sentiamo un po' se mi muovo a destra, cigola meno. Sinistra, davanti. Davanti, insomma, cigola un po', insomma. Ecco, senti, così, se avete altre così è proposte terribile per... così è terribile, sì. Sì, prego, prego. Se avete altre proposte per ospitarmi a Bergeggi, scrivete pure. Se, insomma, cittadini di dove avete scritto, non vuole andare a Bergeggi, lui vuole andare a Bergeggi, cioè non è che gli dite ho un monolocale a Spotorno. Va un bene biloca... anche Spotorno, sì. Spotorno, Noli, tutta la zona va bene, dai. Va bene. Quindi Noli, Spotorno, Bergeggi però sarebbe l'ideale, cari ascoltatori. Intanto traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Devo dire a quello che ha fatto lo spiritoso con quelli del Veneto e del Nord dicendo aiutiamoli a casa loro perché devono andare in giro. Di ricordarsi bene che se si ferma la Lombardia del Nord muoiono tutti di fame in Italia, che se lo ricordi bene prima di farlo spiritoso, va? È meglio. Uè, questo coronavirus sta proprio diventando la rivincita dei Giargiana. Ma Nera, vieni a Bergeggi, vieni che ti mettiamo in quarantena sopra l'isola, va, vieni, vieni. Buongiorno, ma Elisabetta Fusconi sta bene? Perché non la fate sentire? Mi sto preoccupando. No, no, dai, adesso vabbè, tra poco vedremo. E, vabbè, Leonardo, hai sentito, si è scatenato adesso un putiferio nord, sud, ma no, dai, non facciamo... Beh, un classico che non può mancare mai questo, sì, no? Sì, sì, sì, sì. Vabbè. Allora, a proposito di scuole, adesso vi vogliamo raccontare una storia che sembra un po' inquietante. Intanto già l'esame di maturità porta una certa inquietudine, chi non ricorda l'esame di maturità come un momento di difficoltà, inquietudine, timori, ansie, no? Ma questo lo dici tu. Questo lo dici tu, l'hai passato brillantemente e senza nessun tipo di... Divertito. Cioè andavi a fare... andato a fare un pezzo di spettacolo. Esatto, poi. Facevi già le prove degli spettacoli con la commissione esaminatrice. Allora, mi ha fatto tornare il giorno dopo per fare un quarto d'ora di spettacolo. Sì, sì. Sì. Non è andata così a una studentessa di Mondovì. Ne salutiamo l'avvocato. Già fa un pochino specie, ma succede, insomma, a dire l'avvocato della studentessa. Enrico Martinetti, buongiorno avvocato, eccoci qui. Buongiorno a voi. Allora, studentessa che ha fatto l'esame, per dirla in maniera molto breve, l'esame di maturità nel giugno del 2019 e non l'ha passato. Ha fatto ricorso dicendo, adesso l'avvocato ci spiega perché, ha rifatto l'esame, non l'ha ripassato. Ha fatto ricorso e adesso dovrà per la terza volta fare l'esame a febbraio. Questo mi sembra di capire a grandi linee, avvocato, è il percorso della studentessa. Ora lei ci deve spiegare che cosa è successo in questi due esami. Ma in sintesi, durante la prima sessione d'esame a giugno 2019 vennero violate le disposizioni ministeriali sul nuovo esame di maturità, in quanto la commissione sostanzialmente disattese le circolari ministeriali che impongono un nuovo modulo d'esame, cioè non più un'interrogazione sulle singole materie di tipo tradizionale, bensì lo sviluppo di un discorso in via autonoma da parte del candidato che deve dimostrare una capacità anche di interdisciplina tra le singole materie. Ma questo, mi scusi, è stato fatto solo per questa studentessa? Perché è l'unica che non ha passato, se non ho capito, della sua classe l'esame, giusto? È corretto. No, l'esame ovviamente venne condotto con questo modulo nei confronti di tutti i candidati. 37 candidati su 41, nonostante conseguirono la promozione a giugno, fecero una lettera agli organi di stampa suscitando clamore. Sì, sì, dicendo, cioè prendendo le parti della compagna, dicendo che effettivamente era stato fatto. Vabbè, e quindi la famiglia ha fatto ricorso. Il problema è che quando ha rifatto l'esame c'era la stessa commissione esaminatrice. Lì è successo un po', secondo me, una sorta di duello, evidentemente, dire ah sì, fai ricorso. E noi ti massacriamo. No, adesso questo l'ha detto Manera, non lo so, avvocato, sì. Che è successo la seconda volta? È esattamente quello che è accaduto, cioè in violazione di una buona prassi amministrativa, se così vogliamo dire, recepita peraltro da sentenze dei giudici amministrativi, la nuova commissione che a ottobre doveva riesaminare la studentessa avrebbe dovuto essere composta da membri non già facenti parte della commissione di giugno, cosa che non è avvenuta e quindi praticamente vi è stato, diciamo, un atteggiamento non di imparzialità e di terzietà, come comprensibile, perché in sostanza la commissione che si è reinsediata per giudicare per la seconda volta. Si è un po' vendicata, lei dice, si è un po' vendicata. Si è un po' vendicata. Questo l'ha detto lei, ma nella sostanza aveva perso comunque i requisiti imprescindibili di imparzialità e di terzietà, perché nella sostanza la studentessa aveva osato, tra virgolette, far ricorso, portare i docenti davanti ad un giudice. Ma qui c'è la questione è questa, cioè sa che noi abbiamo il nostro Leonardo Manera, in questi casi dice sempre è meglio rinunciare a un certo punto della vita, solo che la studentessa, che se non sbaglio si è iscritta con riserva all'università e intanto sta frequentando il quinto anno in attesa di fare per la terza volta la maturità a febbraio. Sì, a febbraio. La studentessa nel frattempo ha superato il test di ammissione alla facoltà di economia aziendale, oltre che al Politecnico, e avrebbe quindi optato per gli studi universitari in economia. Quindi è stata ammessa con riserva agli studi universitari presso la facoltà di economia aziendale di Cuneo, se non che per prudenza prima di frequentare i corsi dell'università ha inteso attendere l'esito di questo giudizio amministrativo che non era per nulla scontato. Leonardo sta ancora frequentando la quinta liceo in attesa dalla prossima settimana di poter andare finalmente all'università. Ecco, settimana prossima, perché lo deve rifare per la terza volta, ma con la stessa commissione? No, a questo punto il Ministero ha accolto una nostra istanza di ricusazione. Questa è una novità degli ultimi giorni, e ha disposto quindi la nomina di una nuova commissione d'esame integralmente rivista, quindi con membri non sono in alcun modo pregiudicati dalla vicenda precedente. Sarebbe stato interessante rivedere una terza volta con gli stessi commissari. Io sarei andato a vedere questa forma di spettacolo. Questa forma di spettacolo mi sarebbe piaciuto, sarei andato volentieri. Avrei pagato anche un 5 euro di biglietto. Credo che invece la anzi, noi auspichiamo che anche alla luce degli ultimi accadimenti, coronavirus eccetera, l'esame possa essere espletato a porte chiuse per dare alla ragazza la necessaria serenità, perché comunque questa attenzione sul caso la disturba ovviamente. Va bene, avvocato Enrico Martinetti, noi la ringraziamo, in attesa di capire, ci faccia sapere se questa terza volta la maturità passa, perché a sto punto che dobbiamo capire, poi vedere un po' che succede. Adriano dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno, sono Adriano da Verona. Sì. Buongiorno intanto, complimenti per la trasmissione che la seguo sempre, sia lei che tutti i suoi colleghi. Sì, prego. Ecco, il mio punto è questo qua. Mio figlio, diciamo, frequenta la scuola a San Bonifacio, dove è intervenuta praticamente prima la pessima didattica, la preside. E noi abbiamo avuto personalmente un caso, non diretto di mio figlio, ma a difesa, cioè mio figlio ha difeso un altro ragazzo che era soggetto, diciamo, di bullismo. Noi siamo intervenuti perché dopo a sua volta mio figlio ha ricevuto da 5 persone della classe contemporaneamente, dato che lui praticamente è diventato soggetto di bullismo. Noi siamo intervenuti in difesa sua con le ragioni di legge che ci venivano di dovere, e siamo intervenuti però anche con la scuola, e la scuola, come confermo, era proprio parte integrante del progetto, e quindi tutto quello che hanno detto, che hanno fatto, è stato proprio a servizio dei ragazzi e a servizio proprio ma che voglio dire, preparare gli studenti, oltre che preparare soprattutto i professori, i dirigenti eccetera, serve, altrimenti va male. Ma qua prima c'era una domanda di un ascoltatore. No Leonardo, sento che sta entrando, sento la presenza. No, sono già qua comodamente seduta. L'ascoltatore, Leo, che ha detto che fine ha fatto Elisabetta. Che carino, finalmente c'è gente che si preoccupa per me. Prova a tossire. Perché non mi chiama mia madre? Sì. Non mi chiamano parenti stretti, sì. Nessuno si prodiga nei miei confronti. Ti sei fatta qualche domanda? No, ancora no, dovrei dire. Leonardo, secondo te c'è un motivo preciso? Gli ascoltatori per cui sono giustamente preoccupati non tanto del coronavirus, ma del mio stato psichico, perché si rendono conto delle difficoltà quotidiane. Tu hai capito, Leonardo, perché nessun familiare si interessa a Elisabetta Fusconi, gli ascoltatori invece sì. Sto bene comunque, grazie. Perché non la conoscono bene ancora, probabilmente. Esatto. Stavo informando, stavo leggendo sui giornali di messe che vengono celebrate via Instagram. Sì. L'ascoltatore però vuol sapere come stai, perché non ti sentiva, dica 33 di 33. Ma no, sto benissimo. A meraviglia, come detto ieri, sono reduci da uno splendido weekend in Svizzera, dove l'aria è salubre. E sono tutti sani. Come va in Svizzera col coronavirus? Ma guarda, si ferma la frontiera? Ma no, non fermano, frontiere assolutamente aperte, non c'è allarmismo, ci sono 2 casi sospetti, ma per ora non se ne sa nulla. Li hanno già fatti fuori, sono tranquilli. Sono tranquilli, Leonardo. Vuoi andare in Svizzera invece che a Bergeggi a fare il weekend? No, ormai ho detto Bergeggi, qualcuno si sta prodigando per farmi trovare un alloggio e quindi andrei a Bergeggi. Però questo, Leo, dovessi trovarti male, in Appenzello un posto te lo trovo. In Appenzello? Va bene. Tu sapevi anche che esistesse l'Appenzello? Mai sentito nominare tutti in vita mia. Tutti lo sanno, perché in Appenzello si vota per alzata di mano. È un caso unico al mondo. Chissà perché. Infatti la notoria democrazia dell'Appenzello, insomma. Beh, approfondiremo anche l'Appenzello va nelle bene, prossime puntate. Va bene. Leonardo, tu secondo me stai a casa anche per non incrociare la nostra Svizzera qua, di la verità. Leo, no, attento a cosa incrociare... rispondi, ci potrei no, rimanere male. No, dicevo, per non incrociare Mauro Meazza, che sicuramente invece cercherebbe di vendermi qualche cosa a caro prezzo, tipo la mucchina. Esatto. Io poi adesso non capisco quelli che vanno ad approvvigionarsi in modo eccessivo di carta igienica, prendono 50 rotte, ma prima di tutto la domanda è quanti culi avete? C'è anche chi si è approvvigionato di 50 litri d'acqua, Leo, anche questa a me ha lasciato perplessa, francamente, come se avessero chiuso i rubinetti d'acqua. Comunque esiste anche il bidet casomai. Vabbè. La comunque domanda Mauro lo vede impallidire più per la borsa che per altro. Ha questo colorito da ieri. Comunque per vergogna. Il momento cultura e sfida Lucchetti. Appenzello in tedesco è ufficialmente, perché è ufficialmente Appenzello, è un distretto svizzero di 5.825 abitanti del cantone Appenzello Interno e ha lo status di città ed è la capitale del cantone. Perché non vai lì, Leonardo? Secondo me adesso non è che accolgono freschino tutti, lì, eh? C'è freddino. Io preferisco i posti col clima mite. Bergeggi. Va bene, Fusconi sta bene, può tornare a lavorare allora. E allora noi andiamo alla borsa. Mi hanno suggerito anche l'elisir del dottor Meazza per la sedia che cigola prima. Effettivamente lo bevo e la sedia, vediamo un po'. Vedi? No, cigola ancora un po', devo prenderne una doppia pozione. Vabbè, borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao carissimi, ma non avete nessuno lì da voi? Se mi intenda minimamente di bricolage, dai, quella sedia che cigola non si può sentire. Saluti da nonno Aldo. Sono i mezzi di Radio 24, insomma, così vediamo un attimo. Vedi l'elisir? No. L'elisir del dottor Meazza un po'. No, no. Basta, niente. Leonardo, cigola. Allora, devo dire che una considerazione, dicendo questo, alle 10.45 noi ci fermiamo qualche minuto prima, ci sarà Nicoletta Carbone tutta settimana, gli ultimi 10 minuti prima delle 11 per rispondere alle domande vostre sul coronavirus. Dovete mandare le domande, ma non al numero nostro classico. Vi do il numero, vogliamo complicare un po' la situazione, WhatsApp o SMS, dove mandare le vostre domande, che è questo. Perché altrimenti va a intasare, come lo stesso discorso del 112, eccetera. Esatto. Il numero è questo, 335-100-6297. SMS, WhatsApp, vocali. Allora, ripeto, puoi ripetere per favore che non è stato chiaro? 335 335 100 100 62 62 97. No, non ho capito. Puoi allora ripetere? 335 162 97, abbiamo detto finalmente. Qui mandate le domande. No, dico, potevano scegliere un numero meno complicato. Questo è veramente. Smettila, 800, è un numero di telefono. 816-6, no, 335-100-6297. È una scelta sbagliata. Però l'abbiamo già detto tante volte, così magari la gente lo memorizza. 335-100-6297. Adesso mi chiamerai, qual è il tuo numero di casa? 335-100-6297 praticamente. Sì, ma creare un numero così è come dire lasciate perdere, non telefonate. Vabbè, comunque. Ma è un 335-100-6297, è un numero come gli altri di è cellulare. Però 335-100-6297. Va bene, ma adesso fatti da parte, caro Leonardo, perché è emergenza corona prima degli infettivologi, con Nicoletta Carbone. Vedo già Laura Vanossi che in regia si muove, saluta anche con la manina a debita distanza. Prima noi abbiamo il nostro dottore che ci viene a trovare, il dottor Mazza, che in questi momenti di coronavirus è bene che ci dia forse qualche consiglio. Dottor Mazza, buongiorno. Lei che ha i suoi, ricordiamo, anni? 104 anni. 104. Sono sempre curato bene. Non sono affetto naturalmente da coronavirus, ma la situazione è seria. Sì? Quindi se presumete di essere affetti da coronavirus, non dovete assolutamente venire da noi al pronto soccorso, come è già stato detto dalle autorità competenti. Bene. Dovete contattare i numeri di telefono preposti. Sì. Eppure in tante persone incuranti delle direttive continuano a venire da noi anche se hanno la tosse. Ecco, allora noi, come ho già detto la settimana scorsa, per scoraggiare i pazienti a venire al pronto soccorso abbiamo messo al triage un paio di cinesi che vengono a starnutire, tossiscono violentemente. Eccolo. La maggior parte dei pazienti a quel punto se ne va e noi possiamo dedicarci a malattie di altro tipo, soprattutto meno infettive. Meno infettive. Tipo? Voi dovete considerare che anche noi medici siamo uomini come tutti gli altri e non ci fa affatto piacere, schifo. Quando venite da noi ci starnutite addosso, ci fa schifo. Quando ci tossite addosso, immaginando che noi siamo immuni a tutto. Il mese scorso è venuto da me un paziente che mi ha tossito addosso. Gli ho dato uno schiaffo. Ma come? Gli ho dato uno schiaffo. Come uno schiaffo? Ma lei lo deve curare, scusi. Così. Beh, lo devo curare con educazione, non è che questo viene mi starnutisce addosso, io ho dato uno schiaffo forte sulla faccia. Vabbè. L'ho fatto sanguinare dal naso. No, l'epistassi, no. Vabbè. E poi il dottor Mazza, mi sa, e quando vengono i pazienti che ridono, chissà cosa fa il dottor Mazza, no? Chissà. Ma se ridono va bene. Il problema è, magari venessero pazienti che ridono. Il problema qual è? Che da noi vengono solo persone che. È bello che nessuno lo può neanche aiutare a casa da solo, barricato. Quindi. Vabbè. Da noi. Dovremmo mettere la sigla finale di Scaccia Pensieri. Ve lo ricordate Scaccia Pensieri? La sigla del mitico, i mitici cartoni sulla TV svizzera italiana. Prego, dottor Mazza. Da noi incontro solo persone che hanno problemi di sé. Chiudiamo qui, dai. Scaccia. Tanto è già 42. Facciamo un altro momento. Scaccia. Facciamo una telefonata. Mi sembra di essere un cretino, sono a casa da solo. Spero che qualcuno ti bussi dicendo è l'ASL. No, ma guardi, non ho il coronavirus. No, no, venga, ma c'è un ospedale psichiatrico che l'attende. Che l'attende. La sigla di Scaccia Pensieri, ve la ricordate? No, perché purtroppo io vorrei spiegare, quando mi viene da ridere, adesso mi è venuta l'immagine di questo medico che dava degli schiaffi al paziente, il paziente che sanguinava dal naso. E basta, e da lì non esci più. Non esci purtroppo più. Non sono riuscito a moderarmi, chiedo scusa. Va bene, ringraziamo veramente Nicoletta Carbone a questo punto perché ci viene a salvare. Lei con il suo 335-100-6297 è il numero al quale dovete mandare le domande. Per le risposte. Chiudo solo con una questione seria, caro Leonardo. Cosa ha detto l'assessore regionale alla Lombardia pochi istanti fa? Conte è un ignorante, il governo ha sbagliato tutto. Ecco. Era durata 24 ore la pace istituzionale tra governo e regione. È finito tutto e siamo tornati l'Italietta di sempre. Dai, tra poco lo speciale Nicoletta Carbone dopo il traffico, noi ci troviamo domani. Amici ascoltatori, allegria! Uno, nessuno, 100.000.